ventilatore non lo può vedere perché è molto vicino. Ma infatti, vabbè, comunque andiamo a vedere un attestito, anche se come detto come vicini siamo. Allora, Salvatore, quando aumenta, che apro le referine, mi arriva a 9,50, proprio arriva bene, bene, bene. Ma proprio vedi i disturbi, però, Salvatore, sono molto serio, uno splatter, o qualcuno, oppure era un problema tuo. E ho notato anche ieri, quando modulavo, mi sono dimenticato di dirtelo, che a volte non mancavi del radio. Ma guarda, poco fa c'erano degli splatter, c'erano, c'erano degli splatter, sicuramente c'era qualcuno nel canale vicino in AM. Allora forse erano splatter, boh. Andare. Vabbè, che ci mangia stasera? Io sono fatto un panino, ma fai a poco, ci vuole di più. Prima con un panino, quando fumavo, c'erano anche per i maiali, adesso non più. Oh, Luca! Essendo l'altro baracchino, quello intec nuovo che mi è arrivato, che l'FM l'ho provato, così mi dite come esco. Dai, aspetta che accendo anch'io un po' il Galaxy, il Pluto accendo, dai, così lo faccio muovere, dai. Proviamoli, dai. Mi ascolti, Luca? Vai. 1, 2, 3, prova radio, questo è l'FM, com'è, c'è una cagata? No, ti sento bene, cioè, bene. Cioè, comprensibile, non è che siamo stati anche... Ma troppo forte o di sotto, come dimmi un po'. Questo tira fuori a strumento 4 watt e mezzo sta tirando fuori. Sì, esatto. Piena potenza questa. Di poco fa stavo uscendo con un watt invece. Sì, 9,30. Ma com'era con l'altro baracchino? Con l'altro tuo? Yeah. 9,60. Con un watt, figurati come rendono diversamente le radio, te ne accusi, qua mi sta segnando 4 watt e mezzo, e l'altro, faccio la prova, guardami questo segnale, qua sono di strumento, cioè il wattmetro esterno, sono 4 watt e mezzo, adesso ti attacco l'altro con un watt. Aspetta, no, l'ho attenuato, 9,30, 9,60, sì. Luca, ah, yeah. Io sto usando il Pluto, differenza c'è? 9,50. Ma che radio, adesso ce l'ho male, boh, prova! Ma sto uscendo! No, parla anche! No! Sta parlando anche se si è fatto! Luca, ma la radio è comprensibile o è una cagata? Cupa, Robert! No, è comprensibile, Robert! Un po' che ti occupa, ma va bene, è accettabile. Basso è come livello, no, questo è quello che mi porta al mare, troppo basso è come livello microfonico. No, negativo, vabbè, sicuramente al mare ci sentiremo, mettiti davanti una boomerang, non te la puoi piazzare. Siamo con la Grand Prix, vabbè, questa non si riesce a fare qualcosa di meglio, se ci riesco magari riesco ad andare un po' meglio. Dai, riattacco l'altro, perché questo c'è l'altro parlantino esterno e distorce un pochettino, attacco l'altro. Guardami questo segnale, adesso esco con un watt, Luca, con l'altro. Guarda, qua sei 9,60, attenuato 9,30. Luca. Ehi, sto uscendo adesso, va meglio? Ehi, 9,50 è radio a bomba. Luca. Ehi, guarda, questo è meno di un watt, e questo è grande. Quanto è il segnale? 9,50. Più basso dell'altro, quindi? Vabbè, per capirci, ti è presente c'è un watt, e lì avevo 4 watt e mezzo. 9,50, non ci vuole mettere lo salvatore. Cioè, salvatore 9,40, modulato 9,50, Vabbè. Deve salvatore, ma se dopo voi si fa lo scala, si è salvatore. Sto usando il Galaxy, non so se riesco a farlo abbassare, non so se riesco a farlo abbassare, vediamo un po'. Guarda, adesso forse sono riuscito a farlo abbassare. Qua sei sempre 9, quasi più di 9,60. C'è ancora alto sono. Sì, a fondo scala, però sei sul limite per 60, dopo 60. Perché questo non abbassa più di tanto. Ti stavo dicendo, ma togli il processore un secondo. Io? No, rimettilo. Questo c'è, voglio fare una prova, Luca. Sì, allora dimmi. Adesso lo metto a zero, questo tiene presente un watt, questo strumento parte da zero a un watt, adesso mi sto mettendo questa potenza, in questo momento sono 0,2 watt, e se posso ancora scendere, mi ascolti ancora? Sempre, messo? 7.34 e se fondo scala attenuato c'è 9.60. E la modulazione com'è Robert? Come ti sembra? Diciamo, sembra un ambiente, una stanza grande, in un capannone, comunque chiara, 5, radio 5, un po' aperta, diciamo, sembra un leggero riverbero, sempre. Eh no, sono in ufficio e qua, in effetti, ho le volte molto alte, e c'ha questo effetto quasi cattedrale. No, volevo capire, allora, intanto quanti fate sto dando? Vediamo un po', aspetta che forse sono anche troppi, ecco, possiamo abbassare un pochino così. Ma il livello del microfono va bene, o lo devo aumentare? Dico subito, prova a parlare. Guarda un po', 1, 2, 3, prova microfono, prova parlato, come ti sembra? Perché posso aumentare, così diciamo che come lo tengo normalmente con questo tipo di apparato, però potrei ovviamente aumentare, sono poco più di uno. Guarda, potresti anche aumentare, tu leggermente alla media sei un pochettino più basso, la radio è perfetta, niente da dire, però guardando l'indicatore qua io ho dei parametri di dedicazione, di riferimento, sei leggermente più basso del limite in cui potresti arrivare. Guarda, aspetta che aumentiamo così, dai, adesso l'ho portato a 2, vediamo un po' se a 2 è aumentata in maniera sensibile. Sì, si è sollevata. Ti presente, sento sempre un ambiente molto, un po' di riverbero, ti sta anche portando, forse c'è qualcosina vicino. Beh, aspetta, dai, mi allontano, sì, lì ho proprio attaccato all'apparato, c'è l'alimentatore ed è uno dei soliti switching che sono belli per dimensioni, ma sono fastidiosi perché stanno costantemente con la ventola inserita. Mi sono allontanato, sicuramente non si sente più quel rumore lì, quantunque l'effetto della stanza, quello è, c'è, perché la stanza è così, non si può modificare. Guarda un po' se va bene o se posso aumentare. Se c'è la possibilità di sollevare, solleva, sì, puoi ancora sollevare ai riferimenti miei. Allora guarda, adesso sono a 4, così a 4, adesso a 5, così l'ho portato a 6, vediamo un po', sul parlato sono a 6, portato a 7, portato a 8, portato al massimo, così al massimo ritorno indietro, così a 8, così a 6, così è sul parlato sono a 6, parlato a 5, prova parlato al 5, prova parlato a 4, prova parlato al 2, al 2 dove ero prima, forse magari un po' così l'ho rimesso sul 4, mi dirai un po' come va sul 4. No, dovresti sollevare un pochino, c'è da dire una cosa, ti stai muovendo, cioè stai spostando la direzionalità del microfono, perché vedo dei momenti, anche se stai abbassando si sta sollevando il parlato, probabilmente non te lo stai orientando perfettamente il microfono. Mi sono spostato un po' adesso per non avere il microfono da attaccato. Così è inserito, così è. Poi ne approfitto per salutare in particolare. Molto. Eccoci qua, antennina. Uscendo con 0,2 watt, non so se mi ascoltate. Io ti ascolto sempre. Ah, per me sei fondo scala sempre. E adesso anch'io sono. Io voglio provare a vedere se da quando riuscite a ascoltarmi. Adesso mi abbasso perché lo strumento adesso sono 0,1, sto scendendo. Forse, non so, quelli di più lontani mi ascoltano ancora. Ascolto sempre, ciao Marco. Ma c'è qualcuno che non riesce a uscire di modulazione? Sono io, Marco. No, tu arrivi fondo scala, Robè, ma tieni presente siamo a poche centinaia di metri in linea d'aria, lo sai dove ho l'ufficio io? Sì, no, vabbè, finalmente qualcuno lo sta facendo, volevo vedere io. In questo caso qua l'apparato era appena più su dello 0, probabilmente non è neanche 0,1, non sono neanche 100 milliwatt questi, perché lo strumento non lo indica più. Non so se mi ascolta ancora Salvatore, mi ascolti tu che sei a ottava? Cappa, sì che ti ascolto, beh, anche bene, però non so se sono io che non sto uscendo. Ciao Marco, mi cupi? No, ascoltata Salvatore, Marco, Salvatore l'ha ascoltato. No, adesso no, poco fa lo sentivo bene, Luca lo stesso arrivava a fondo scala, ma probabilmente forse si è allontanato. Salvatore, mi senti? scappa Marco, aspetta, vediamo un po', così recuperi, buonasera Marco. E beh, così sei con Moscala nuovamente. Sì, benissimo, Salvatore, ciao. Ciao, ben risentito, Salvatore. Cappa, sì. No. Vabbè, stavo uscendo con... Quanto? Un watt e mezzo, quindi ho dovuto tirare su. Perfetto, comunque stai arrivando benissimo qua al TAV, Marco. Quando ti sei attenuato leggermente, eri 7, ma la radio è perfetta. Sto usando lo stesso apparato, credo, insomma, quello che usate anche voi, K, per forza, ok. Perfetto, ma non stai usando un microfono da tavolo oppure il suo originale? Sì, l'MC60. Sto usando l'MC60 e ho una verticale che è interna qua con una base che uso normalmente quando sono in portatile, è uno stilo intorno ai 2,60 metri all'incirca, è lo stilo che uso per 10 metri, ma non c'è neanche contrappeso perché è una base magnetica, così fa da sostegno per reggersi, qui poggiata vicino alla finestra, l'ho messa giusto per fare una prova, vedo che stazionare me le porta a zero, ma ovviamente è così, è empirico, giusto per poter collegare l'apparato e vedere se funziona, insomma. Scusa, mi informa, è 44 o 14? Ho 44, guarda, era da tempo che lo cercavo, prima me ne hanno fatto avere uno, però non mi piaceva, poi me ne hanno fatto avere un altro e poi questo qua, insomma, che è perfetto, è veramente nuovo, è una delle ultime serie, sembra acquistato ieri. Ah, col processore o senza processore sei tu? Col processore. Fai un confronto, togli il processore, voglio capire se ti cambia anche la modulazione. Senza processore. Vabbè, va meglio, E lui che stava facendo la prova, no, fammi due confronti, voglio capire, se faccio anche l'esatto rispetto, voglio vedere se ti toglie qualche frequenza. Marco, scusa un attimo Luca. Guarda, così è senza processore a 50K. Senza processore 50K, adesso ti faccio un passaggio, vediamo un po', ecco qua, così a 500, così a 500K, prova sul parlato a 500K, così ritorna a 50.000, così ritorna a 50.000, e sono sempre senza processore. Allora, questo passaggio è più presente la radio, però sono notato c'è una leggera carenza, non so perché, per quale motivo, di tonalità acute su questo tipo di microfono. Vabbè, tieni presente che porto un segnale che sicuramente non è come Dio comanda, come dovrebbe essere, non ha neanche massa l'antenna, c'è solamente, come ti ho detto, il polo radiante, la base magnetica appoggiata per terra. Comunque c'è da dire adesso che sei salito da moltissimo il coso, il livello, poco fa. Hai avuto, ma sono arrivato a Mickey Gay pure dall'apparato? No, ho lasciato tutto così, non ho toccato niente, dopo le prove che ho fatto adesso non è rimasto invariata la posizione del Mickey Gay. Non ti sei avvicinato tu perché è salito tantissimo il livello microfonico, è salito tantissimo, adesso sta lampeggiando il limite mio, quello rosso che mi do come riferimento, poco fa non ci riuscivi a farlo lampeggiare. O ti sei avvicinato tu o hai fatto qualcosa, non ho capito. No, dopo che tu mi hai detto che andava bene come la posizione del Mike Gain, l'ho lasciato lì, mi risulta più o meno intorno a 6. Sì, ma là c'avevi l'impedenza del microfono di diversa, cioè un'altra posizione. Sempre così, mi sono spostato dall'alimentatore che è proprio a pochi centimetri, e sono quelli, come ho detto, quei switching molto piccoli, quelli della tele, questo qui è della Proxel, vabbè sono uguali comunque. Io non ne ho mai usate, mai ne userò, almeno sul discorso di radiofrequenza e di hi-fi non ne ho mai usate, mai ne userò, per altre cose magari per alimentare i computerini, cose così già vanno bene, ma in uso radiofrequenza ci vogliono alimentatori sì, no giocattoli. Ok, c'è Luca che stava chiamando, avanti Luca. C'è Luca. Ma sto uscendo? Sì, ma Luca non lo sento io, Eccomi qua, no, un passaggio in AM, roba, è possibile? Se 02, aspetta un attimino, commuto, mi devo sollevare perché con 01 non credo che vada da nessuna parte. Cappa, un attimino, ok, ecco qua. Scoraggiarsi e ritentare. tentare, vedrai che prima o poi, cioè poi credo, insomma, voi avete dimostrato nel tempo di avere una grande passione e mi sembra giusto, insomma, uscire da questa limitazione che è qua e poter invece magari fare dell'altro, divertirsi e spaziare veramente nell'attività radiantistica. Va bene, sentiamo Luca se è arrivato, io dopodiché ripasserei a Roberto e vi saluto perché chiudo qua in ufficio, magari riprendo dalla macchina. Sentiamo un po' Luca che era particolarmente in parcheggio. Luca non riprende, sarà impegnato al computer. Roberto, allora l'antenna qui a un passo va a te. Eccomi, no, mi sono spostato a fare una prova, Marco, dai. Questo qua è un altro tipo di radio, come va? Va bene, va. Ah, benissimo, ma qui in FM ti ascolto molto molto meglio, Segnale fondo scala e la modulazione è sempre molto molto bella. A tu 9.40, radio ultima, più che ultima. Aspetta un attimo che stavo facendo un po' di ascolto, un altro apparecchio. Va bene, dai, Robè. A te il mic, io mi sposto 10 minuti dal barracco. No, ci sono al computer, Marco. Ci sono, dai. So che tu sei tecnico di linea, diciamo. Una domanda velocissima. Che tecnico? Io sono un appassionato, non è che sono tecnico. Ho un po' di conoscenza, ma non certo molto profonda in elettronica. Sono più che altro un praticone, visti i 40 anni di radio. No, parlo di antenne. Allora, io volevo fare un salto di antenne, ho preso una direttiva, l'ho montata almeno orizzontale, che dopo i grossi guadagni è una per la 27, però io vado solo su 27. E a lunghe distanze naturalmente la differenza si nota per certi tipi di cose. Non la posso montare in verticale perché il rotore non lo permette, però c'avevo l'idea che c'era Salvatore di provare una cubica, due elementi. E guarda caso è capitata l'occasione, adesso me l'ha dato un amico, lo facciamo i numeri, prego provatela. Io c'avevo un progetto che volevo fare, lui c'era già quella che è pronta. E qualche osservazione da parte tua a livello di rendimento, c'è il vantaggio rispetto alla Mantova, naturalmente motorizzata perché c'è il motore, ce l'ho già montata sul motore, eventualmente. Parla tu. Vabbè, come paragonare una bicicletta ad una 500, una moto 500, la Mantova ha una gran bella antenna omnidirezionale eccetera, ma quando passiamo ad analizzare antenne direttive, antenne con prestazioni con altissimo guadagno, le antenne a loop chiuso, la Delta e la Cubica sono le migliori in assoluto. Intanto noterai che è molto silenziosa, addirittura sembra quasi in certi casi di non avere collegato il connettore e soprattutto poi grandi prestazioni, ma proprio ti dico grandi prestazioni. Ma due elementi veramente è la soluzione ottimale per dimensioni, per ingombro, per peso, per tutto, con già risultati eccezionali. Non ho capito se tu la dovrai costruire mentre lui ce l'ha già fatta o la copi, oppure se che cosa devi fare, Roberto? Allora, io avevo un'idea, avevo visto un progetto su internet, molto bello anche esteticamente, utilizzando dei tubi di PVC con degli innesti, i classici tubi per gli impianti elettrici, cioè vengono già gli innesti, quello che è pronto, però è capitato un discorso con un amico, io ce l'ho già quella che è pronta, la vuoi, e me la portate in officina, guarda caso. Lo filo centrale lui ce l'ha fatto in scatola d'alluminio e poi quelli per leggere i filari, diciamo, del cubo, diciamo, della superficie, e in canna da pesca, ha usato dei tubi di canna pesca in Kevlar, è bella che pronta a collegarla, solo ho detto bisogna essere vale effettivamente la candela, a che altezza la devi montare per avere una resa abbastanza decente dal pavimento, diciamo, dal terrazzo. Ma intanto ti ripresento che ti raccomando di verificare che le canne da pesca siano in materiale fibra di vetro e non in fibra utilizzando carbonio, Kevlar o soluzioni di quel tipo lì, perché se no non va bene. deve essere solo esclusivamente fibra di vetro, non deve essere conduttore, perciò le canne devono essere vecchio tipo, come si realizzavano un tempo, ora già da un po' di anni non vengono più utilizzate perché non più prodotte, fra l'altro a causa delle severe norme di inquinamento, e perché quelle in fibra di carbonio, i Kevlar o altri materiali sono materiali conduttori e perciò non adatte, in virtù del fatto che il cavo perimetrale che deve essere utilizzato sia nell'elemento radiante sia nell'elemento riflettore deve essere un cavo che deve virtualmente risultare sospeso nel vuoto, perciò canne di bambù, canne in fibra di vetro oppure tubi di quelli arancioni che hanno una tenuta maggiore rispetto a quelli grigi, sicuramente questi sono i materiali più adatti, la cubica per la 27 comunque il lupo è abbastanza modesto di dimensioni, perciò non hai sicuramente problemi di tenuta. Sconsigliato il legno perché durante le piogge il legno si bagna e comunque crea contatto con continuità per parecchio tempo e creando tutti i problemi che ovviamente hai già capito che non devono assolutamente portare conduzione negli elementi di supporto. E basta, poi che cosa c'è da dire? Non so se l'antenna sarà configurata come riflettore e radiatore. Se è configurata il riflettore radiatore, quando tu la collochi già almeno a metà lunghezza d'onda, perciò parliamo a circa 5,50 m con la parte più bassa dell'antenna, perciò dell'elemento radiante, incominci già a ottenere un ottimo risultato e una corretta impedenza, altrimenti le condizioni migliori sono quelle che vedono un'onda intera di distanza reale dal loop rispetto all'ostacolo più vicino, e l'ostacolo più vicino intendiamo il tetto ovviamente non il suolo, perciò 10-11 metri da terra è almeno è una delle misure migliori, è ovvio che potendo aumentare questa distanza sempre in relazione ai multipli della lunghezza d'onda o alla metà della sua lunghezza, perciò 5,50 m incomincia a lavorare molto bene. Questo Marco Scorpiano a te, Robert. Sì, chiarissimo, niente da dire, sarà un po' problematico motorizzarla così perché l'oscillatore economico che non fa, infatti stavo usando tipo quei tralicetti leggeri, mettere il rotore all'interno del tralicetto e poi nella parte superiore del tubo, diciamo, dove attaccare l'antenna, metterci una cosa di cuscinetti, qualcosa del genere, perché sennò l'oscillazione è troppo elevata, perché se mi stai dicendo a 5,50 m la parte più vicina, la parte più bassa, cazzo, devi metterci un palo molto alto allora, perché quegli fili, diciamo, quei tubi dove fissare il filare, saranno almeno 2 metri di altezza, 2,50 m, il punto più, diciamo, dallo stilo centrale, dall'asse centrale, saranno almeno 2,50 m che arriva, per cui devi superare dei 2,50 m più 5, saranno almeno 7 metri. Aspetta che c'è un po' di rosso, un attimo. Ecco qua. Ti sconsiglierei i tubi che trovi in giro, i tubi telescopici, non adatti assolutamente per l'epe di quella portata, ma invece ti consiglierei uno scatolato, prendi uno di quelli da 6 metri, due li innestati uno dentro l'altro. Il problema è poi, come sempre, il montaggio, che non è facile perché l'antenna è delicata e bisogna lavorarci, sai, poi dipende anche da logisticamente come hai disposto il tetto, se è piano o meno, se si può camminare, se si può lavorare bene. Comunque trovi cuscinetti reggispinta con 50 euro, 40 euro, li compri già fatti, è inutile stare lì, come molto spesso capita, per un impianto così, tutto sommato leggero, vanno benissimo quelli della IAESO, della Kempro, che poi sono identici, sono solo marchiati in maniera diversa, con 40 euro, 50 euro, non ricordo quanto costa, compri già un buon cuscinetto reggispinta, e un buon cuscinetto centro di spinta che risolve il problema della, della, della torsione e di non gravare sul, col suo peso sulla, sul rotore. È ovvio che devi comprare una gabbia per far sì che il sistema possa funzionare correttamente. Vai sul sito della ProSitter, con 150 euro ti vengono già la gabbia già fatta con supporto, centro di spinta e tutto, non fai altro, ho già forato anche con i perfettamente in asse con i vari rotori in commercio, non stai, guarda, neanche a perdere tempo con lavori di tagliare, modificare, fabbro, macello, vabbè, tu non hai certo quel problema, però comunque i problemi poi sorgono, lì compri una cosa che è sicura, che centinaia e centinaia di radiatori di tutto il mondo hanno già comprato, arriva, non fai altro che montarlo in cima allo scatolato, ci infili il mast e hai risolto, ed è sicuro che è un sistema che funziona senza stare a perdere tempo e a buttare dei soldi o fare delle cose che poi magari possono creare meccanicamente dei problemi. E basta, poi l'antenna, come ti ho detto, non so se è in configurazione, se basta, se vuoi altissimo guadagno, cioè se sei puntato per un'antenna che devi avere alto guadagno e non ti interessa l'attenuazione fronte fianco, fronte retro, la configurazione migliore è quella con il radiatore e con il direttore, cioè il loop radiante davanti a sé deve vedere un direttore, sempre due elementi, perciò nella configurazione radiatore e direttore. Se invece vuoi un'antenna che ti evita disturbi laterali e posteriori, o diminuisce i disturbi laterali, i segnali interferenti laterali e posteriori, allora la configurazione è quella con il riflettore. Ma sai, il 27 non è che, non so, se devi fare attività di ex e collegamenti a lunga distanza è più conveniente aumentare le prestazioni e perciò migliorare il loop, il guadagno del loop e perciò configurarla con inversione radiatore e direttore, che comunque più o meno dovrebbe guadagnare forse intorno a 0,5 dB e perciò è sicuramente la soluzione ottimale sia in trasmissione che in ricezione. Ma sì, quella che ho io è così proprio come sistema di direttore e riflettore, perché ho visto poi ci sono altri sistemi di radiazione troppo complicati, facciamo perdere, non mi interessa, a me interessa la direzionalità dell'antenna, utilizzo magari la verticale per avere, se riesco a sentire magari quel segnale per sbaglio e poi girarmi e spostare la direzione del segnale. E allora quella è radiatore e direttore, si chiama radiatore e direttore, cioè l'elemento che irradia è l'elemento che rimane dietro, diciamo, ed un primo direttore, perciò il radiatore che avrà lunghezza, boh, adesso bisogna fare i calcoli, ma intorno a 27.000 roti, non so più o meno in che frequenza tu vorrai utilizzarla, perché se ci devi lavorare dentro qua oppure se vai al limite band eccetera eccetera, bisogna fare un paio di calcoli che comunque sono la velocità della luce 300.000 diviso la frequenza e hai la lunghezza fisica del materiale che devi utilizzare. Puoi usare le tracciole di filo elettrico oppure se riesci a reperire anche del rame smaltato da un millimetro, con un rame da un millimetro, un millimetro e mezzo tieni tranquillamente kilowatt, perciò va di lusso, è la soluzione ottimale. Altrimenti ordinare del materiale specifico, ma non so se vuoi fare una cosa del genere, utilizza allora il bronzo fosforoso che è il massimo dal punto di vista della conduttività. E niente, poi bisogna realizzare lo stub per riportare l'impedenza a 50 ohm, perché l'antenna così non è adatta. Guarda, sono managerata, l'ha già provata, dice già accordata, tutto a posto, naturalmente c'è da dire. Però ho usato dei materiali che io preferirei magari modificare, utilizzare, alleggerirla, mettere quei tubi PVC che ti ho detto. Scusate se stiamo monopolizzando Salvatore e coso. Luca, dai, è un argomento che non si parla tutti i giorni di questo tipo di discorso, per cui scusate un attimino di nuovo. Volevo alleggerirla un pochettino perché lui ha fatto vedere la croce dove attaccare quelle famose canne da pesca che ha messo, in ferro zingato, non va secondo me. È troppo pesante, mentre esistono già degli innesti, quelli per i tubi degli impianti elettrici, sono quelli strani, poi gli edifici con sigillante, quello che usano per i tubi dei pluviali, come si chiama, tangit, in modo che diventa tutto un corpo unico. Volevo fare una cosa del genere, ho visto un bel progettino su internet. Il problema era appunto come hai detto, un calcolo del coso, delle ridurre la differenza perché è troppo alta. Comunque si può fare tutto, magari un giorno se capita mi avvicino, ti avvicina e proviamo, ti faccio vedere quel progettino che ho fatto io e poi mi dirai qualche cosa in merito. Facciamo riprendere Salvatore, speriamo che non si siano annoiati, né Salvatore né Luca. Negativa, annoiati, lo sai che interessa anche a me, anzi stavo ascoltando e stavo prendendo anche degli appunti, perché è una cosa che ne abbiamo parlato già a Roberto e quindi mi interessa tantissimo. No, una domanda volevo fare a Marco. Marco, facciamo l'ipotesi, che tu, cioè, devi piazzare una stazione, mettiamo a Tempio, perché è un punto di riferimento che ci vado spesso, e voi riuscite a collegare Sassari, quale tipo, su quale tipo di antenna andresti? In che senso? Cioè collegare, cosa intendi? Tu vorresti da Sassari collegare e tenere costantemente il collegamento con Tempio? Diciamo così, su questa frequenza, sulla 27, tu quale tipo di antenne sarebbe più indicata? Beh, ma abbiamo un problema che è quello ovviamente della propagazione. Tempio è comunque sono parecchi chilometri e la propagazione non sempre ci permette a qualsiasi ora di effettuare un collegamento a così lunga distanza, Salvatore. È chiaro che ci vogliono antenne con altissimo guadagno e apparati che possano erogare anche elevate potenze, ma non significa che il collegamento si riesca a farlo costantemente. E sicuramente antenne più performanti sono antenne tipo quella che stavamo dicendo adesso. Una cubica o una delta loop sono le antenne migliori. Io su queste antenne sono da anni che ci lavoro e ne ho costruito tante, non proprio sono imbattibili. Per quanto concerne il discorso che ha detto Roberto di tangit e giunzioni così, io ti sconsiglierei queste cose che sono troppo delicate, non adatte a leve, a torsioni, a vento, meccanicamente non ce la fanno, mentre invece ti risposo con quella che invece aveva già, adesso non so, non ho visto com'è fatta, ma acciaio, ferro acciaioso zingato, materia del genere, che sono sicuramente più adatti, a meno che non compri crociere in fusione di alluminio. Io magari un giorno che passo me la metto in macchina, ti faccio vedere un paio di crociere tipo quella che uso io, le prendo da un'industria che è quella che mi costruisce le parti che utilizzo per le antenne. Sono crociere in fusione d'alluminio con bulloni in acciaio, sono delle cose leggere rispetto alle dimensioni che hanno, alla tenuta che danno. Certo, il loop di 10 metri non è particolarmente pesante, la cubica non è particolarmente pesante, ma il vento fa delle leve che sono bestiali. Io ti consiglio sempre di utilizzare materiale così, acciaioso zingato, bulloneria in acciaio, il boom, che intanto un'antenna così come una due elementi, adesso non ricordo, ma se c'è una spaziatura media, già c'hai 2 metri, una spaziatura media, un quarto d'onda ce l'hai a 2,75 m, puoi usare un tubo di quelli tipo il tubo palo telescopico, ecco, di quelli da 5 centimetri, 4 centimetri, 5 centimetri, ma non scendere neanche di diametro. Quei paletti tipo TV da 5 centimetri, il primo di quelli degli elementi da telescopici di 10 metri va bene, e poi lì ci puoi far magari già saldare invece dei mozziconi, no, dove dentro poi ci inserisci le canne da pesca e con un bullone che possa stringere, poi tutto va tutto ben bloccato, nastrato anche, i bulloni che serrano la canna da pesca, senza esagerare, perché sennò la spaccano, lì magari ci va una linguetta in metallo che prema per tutta la lunghezza e non prema solo nella posizione dove il bullone va dentro a comprimere la fibra di vetro, perciò una stecchetta, una mezza luna di metallo. metallo che va giù e che perciò quando il bullone stringe, stringe per tutta la lunghezza, due bulloni. Questo credo che sia insomma già un lavoro fatto in casa, ma che funziona insomma. Allora, se capiti da me in ufficio, tanto che la rossa è passata l'altro giorno, fermati due minuti, ce lo devi apportare in mano, te la faccio vedere. No, come costruzione è bella, però io volevo alleggerirla, mi stai sconsigliando tu, tanto ho considerato la superficie esposta ai venti, sono le filari, cioè sono dei fili, non è una parabola, perché c'è una superficie molto, molto ampia, perché ho detto, considerando il peso proprio dell'antenna, non è elevato, detto, magari se tu riduci anche i pesi della struttura, con la flessione del materiale utilizzando questi tubi di coso, di PVC, magari prendendoli quelli un po' più robusti, perché questo è l'asse centrale, diciamo, dove è montato tutto quanto, è in alluminio, uno scatolare d'alluminio sarà diametro 4 cm, dai, per lato, scatolare quadrato, e poi c'ha questi T infilati dentro, queste cruci posteriormente in acciaio zingato, e poi ci sono le canne a presto posteriormente. Ho capito Roberto, però alleggerire va bene, ma tu ricordati che se alleggerisci aumenti le prestazioni dei materiali e prestazioni dei materiali in quel caso nelle parti così a giunzione eccetera dove sono sottoposti a leve perché comunque fanno vela, perché tutto questo materiale è una superficie esposta al vento e c'ha delle pressioni bestiali e perciò lì si spacca tutto, se no ti prende male poi, perlomeno io ho fatto dei lavori anche facendo delle cose che sembrava che andassero bene, invece poi il vento fa un danno che non ne hai la minima idea, fa delle leve, c'è una forza bestiale, perciò l'impianto va sicuramente fatto bene, senza certo se c'è un chilo in più pazienza, però quel chilo ti dà tranquillità e serenità che l'impianto che è sul tetto rimane lì anche se c'è il vento. Non cade giù per strada e fa danno o crea problemi insomma. Per quanto concerne il discorso che hai detto tu invece Salvatore, lì come dicevo antenne così più che una due elementi, allora ci vogliono due antenne magari a quattro elementi, ognuno con cubica a quattro elementi e apparati così seri tipo quello che stai usando, ma non so neanche se riesci poi ogni giorno sempre a effettuare a collegarlo, perché non c'è continuità con la propagazione, è diverso essere invece puoi spostarti di banda e allora lì puoi scegliere frequenze diurne e lavorare in frequenze tipo i 40 metri dove magari c'è possibilità che ti senti un pochino di più, se non ti senti in 10 provi in 20, provi in 18, provi finché trovi una frequenza che ti permette di ogni volta di fare il QSO, perché anche lì a seconda della propagazione non sempre riesci a garantire la stabilità del collegamento. La propagazione così, l'etere è stravagante, ma è divertente forse anche per quello, Sabato. Sì, è vero. E in questo periodo dove c'è la propagazione migliore o macro? Ma guarda, ti dico che contrariamente a quelle che aveva 50 metri, proprio ieri notte ho avuto piacere di collegare la stazione quartiana in 40, ho collegato una spedizione nel Pacifico, sempre in 40, in uno dei most wanted dei country più difficili in assoluto, che sono le isole Cayman, e sicuramente i 40 e gli 80. I 18 sono costantemente, molto spesso sono aperti, più di altre banne che invece in altri tempi erano frequenza regina, tipo i 20 metri, dove a qualsiasi ora era possibile fare collegamenti a lunga distanza. Adesso invece sono un po' stravaganti, ma questo è dato dalla bassa attività solare che sta creando anche tutte queste particolari condizioni meteorologiche che abbiamo visto in quest'ultimo periodo. Si parla di una ripresa che però ancora non c'è, ma comunque i 40 e 80 metri sono al momento le frequenze dove c'è da divertirsi e i 18 insomma. Sì, Beh, avere possibilità di spaziare sempre è tutta un'altra cosa. Ok, riprendi Robe, che un attimo mi allontano, che devo fare una cosa. Riprendi tu. Beh, Luca, non vuole che si sia annoiato. Avanti, Luca. Luca si è spostato, vediamo se c'è qualcuno nel frattempo. Pensiamo nel canale 21, modulazione FM, chi vuole entrare qua, buonasera. E buonasera a tutti. Mia Gianni, c'è Marco, compagnia di Marco, avanti Marco per Gianni. Sì, ciao Gianni, ben collegato già. Io ne approfitto per spegnere qua e magari riprendo dalla macchina, facciamo ancora due chiacchiere mentre sto rientrando a casa. Allora ti lascio in un attimino per un paio di giri in QSO con Gianni e con Luca se riprende. Marco Scorpio, un temporaneo QRT, riprendi Gianni e fai girare. Kappa, dai. Ciao Marco, dai, fatti risentire dopo, mi ha fatto piacere sentirti, mi ha dato almeno la benedizione, dai. Ciao, ci sentiamo dopo dalla barra mobile, allora, avanti Roberto. Va bene, ma cogliano se non c'è problema, sempre ben accetto qua, soprattutto quando ci sono argomenti tecnici interessanti. Ok, vediamo se nel frattempo è diventato Salvatore, vediamo se c'è Luca. Gianni. Via. Ma dove sei tu? Casa. Come mi stai ascoltando? Bene, a bella rara. No, il segnale dal mio rapporto. Vuoi vedere, avanti. 1, 2, 3, prova radio. Come dici? Lo sai quanto sta uscendo? 0,5 watt in questo passaggio. Ma può fare anche più basso, perché probabilmente come ha scaldato si è sollevato. Stavo utilizzando qua l'FM già da qualche giorno con Salvatore e qualche altra persona che si è aggregata. Ne ho notato pochissimi watt, grande qualità di emissione, eccetera, eccetera. Paga. Sì, no. In effetti basta lavorare con lo squelch lì in FM, va benissimo, perché non senti una seconda telefonata. Se tu metti lo squelch e prova a squelciare, è vero. Benissimo, infatti purtroppo qua in Italia, non so per quale motivo, vabbè, forse l'FM è arrivata troppo tardi, come le radio private in FM prima si andava sempre in AM, però considerando che siamo nei tempi moderni, l'FM è un altro pianeta, come tipo di emissione. Ma tu vedi, Salvatore mi ascolta a 9,20 e io stavo uscendo poco fa con 0,1 watt, con 100 milliwatt. Adesso guarda, ti faccio una prova, mi provo ancora a abbassare. Adesso sono meno di 0,2 watt, sono 150 milliwatt. Come è? Che hai cambiato qualcosa? 9 watt. Come già? 9. E mi stai sempre ascoltando perfettamente. Tu sei, non so quanto stai uscendo, sei 9, c'è oltre 9,60, cioè lo smitter a fondo scala io. Se a tempo arrivi a 9,60, fate il conto. Ecco. Avanti. Buonasera, ma c'è la roba. Cos'è questo? Natalino con l'eco, cavaliere con FM è inventato l'eco, Natalino. Ah, Pangualla, ce l'avevo perché stavo parlando con Antonio, Se potete abbassare, perché mi state spaccando tutti e due lo smitter, qua ce li ho tutti e due e spaccano a un giro lo smitter. Comunque c'era Natalino, poco fa Marco ci ha dato delle dritte riguardo delle antenne, adesso sta riprendendo dalla macchina. È stato un piacere, diciamo, un po' che non lo sentivamo, ma quando parla Marco ci togliamo tutti il cappello, almeno io me lo tolgo subito. Abbassare i watti voi, dai, aspetta che abbasso qua, ecco, magari anche la radio è troppo forte, la metto, vedi un po' come va adesso. No, oh, la radio puoi sollevare, non c'è problema, i watti li dovevi abbassare, io sto uscendo in questo momento con 150 milliwatt, Natalia. Sempre tanto più di 9 watt non dà. Sì, vediamo se è diventato Salvatore, un attimo, avanti Salvatore. Sto uscendo. Sì, ma c'è qualcuno sta mandando portante e sta fischiando. Chi è avanti? Lo sentite? Sì, un fischio, ma passate tutti qua, ma sorvoliamo. E non passate tutti qua, 9,60, è a fondo scala. Ecco. Avanti, ecco. Grazie, buonasera, qui Giuseppe da questa parte. Saluti a Roberto, Doppio Room e Natalino. Se la Vicco al posto di fischiare va dietro le capre, magari è anche meglio, cappa. Ma vedete, non è comunque quello che sta fischiando. Sera, cordialità. Buonasera a tutti voi, cordialità da parte mia. Oh, già la Bulus è arrivata, adesso stanno sovramodulando, non capisco quello che state dicendo. Chi è avanti? Oh, andiamo sull'11 chiamo Stefano Marco. Metti lo squelci. Vabbè. Fa zitto e si apre solo quando parla, a livello della modulazione. Dai, vi schiaccia tutti questo segnale, è vicino a me. E a me mi passa, Robè. Prendere provvedimenti. Eravamo con questo tranquilli, eravamo quattro persone tranquille parlando anche di cose importanti, poi di gruppo che sono sempre simpatico, io non riesco a quello lì che abbiamo fastidio della frequenza. Troppa gente che sembra vostra busta. Sì, infatti. Ma basta non dargli importanza a questa gente qua. E poi è il momento opportuno prendere i provvedimenti che si debbono prendere. Ne stavo già parlando con altre persone, quindi i provvedimenti si dovranno prendere per forza. Poi per fare qualcuno ci tengono. Comunque quando parla questo qui fischia, vi schiaccia tutti, no? Non ci sono storie, cioè, resta molto vicino a me. Io penso che sia molto più vicino a me invece, Robè. Guarda, Natalino l'ha annientato, a te ti ha seppellito, e a Gianni un po' si sentiva ancora Gianni, però è molto forte, per cui non credo che sia vicino a te. Sì, mi ha seppellito perché ho passato un cavolo a basso. E se no attaccuracelo, vi voglio vedere. Vabbè dai, lasciamo perdere. Vediamo, lasciamo una chiamata, attenzione Marco, se ci sei batti un colpo. Eccoci qua. C'è sempre qualcuno che magari non, al quale non piace ascoltare, fare questioni, così. Fa parte della frequenza. Vabbè, rieccoci qua, sentivo che è arrivato Natalino, non so se mi sta ricevendo bene, questo è Marco Scorpion. Natalino Altuno qua. Ciao Marco, ben sentito, ben entrato, buonasera. Benissimo, ti ricevo benissimo. Ok, fumo scala, io sono uscito dall'ufficio. Acceso, ma era entrato Gianni nel frattempo, che è da un po' che perlomeno qui no, ho fatto prima vederlo di persona che non ha sentito in radio. Va bene, ritornando alla questione che avevamo prima, Salvatò, se vuoi fare quel lavoro dovrai metterti in opera un'antenna ad altissime prestazioni, un'antenna insomma, tipo quella che devo piazzare io adesso in primavera. Metti, fai una bella cubica a 6 elementi, 5 a 6 elementi per la 27, e così hai almeno 14-15 decibel di guadagno, la propagazione la apri, eh. Salvatore non è ancora rientrato. Comunque Marco, io non riesco a attenuarti, perché sì, ho messo l'attenuatore sempre, lo smette, non si muove neanche di un millimetro. E adesso ho provato con le chiudere le RF completamente, se solo si risolve poi non sento gli altri. E aspetta, devo fare una cosa, un attimo. So cosa c'è sotto, ma cacchio, mi stai distruggendo il baracchino. Ok, una domanda adesso a Natalino, siccome Luca ha fatto un'osservazione. Il 140, Natalino, quando chiudi tutta la potenza, il power, fai al minimo, e com'è la minima potenza di erogazione? Non lo conosco, e quello lì non lo conosco. So che non è come quello che ho io. No, non puoi uscire come quello che abbiamo noi. Questo regola da zero, adesso sto dicendo sono quasi 200 mW, perché noto che sta andando un pochettino, come sta andando un pochettino sale questo, o è il wattmetro che se ne sta andando, comunque questi sono 0,2 W, 200 mW, e comunque posso scendere ancora di meno volendo, e quello Luca più di un certo punto non scenderà. No, non scende, quello lì è poco più di un baracchino, ora piccolai, no, lasciamo perdere, vabbè, te l'ho detto com'è quello lì. Non c'è problema, dai. Ok, facciamo vedere un attimino se è rientrato Salvatore, se ci sei batti un colpo anche tu. Poi non è andato a mangiare, non lo so, normalmente lo dice quando va a mangiare, mi sento un attimino, c'era qualche bisogno urgente. Ok, Gianni, di nuovo avanti. Ehi, è rientrato Marco Scorpion, ben sentito di nuovo. Capa, dove ti trovi Marco? Mi sto passando la piazza dei segni. proprio in questo momento, segnali fortissimi tutti, e vabbè, ero qui, ancora un po' e ti vedevo, segnale, ho ridotto un pochino anche quella che era la potenza, perché tanto non era assolutamente necessario. Va bene, perciò Robè, antenna, due elementi, configurazione, radiatore, direttore, poi ci va uno sub per riportare l'impedenza a 50 ohm, non so, lì come l'hanno chiuso, il loop del radiatore come l'hanno chiuso, non so se c'è un condensatore o un variabile, perché se non c'è il condensatore c'è variabile, ma è alimentata direttamente così in cavo, allora la discesa gliel'hanno fatta a 75 ohm. Non so, hai visto com'era fatto lì la parte dove c'è il punto di connessione con l'alimentazione? A quel pezzettino lì di cavi la filare me la deve ancora accordare. Lui mi ha detto che è riuscito a accordare, accorciava e allungava, non so se ha fatto, comunque dice accorciando le lunghezze del coso, degli elementi che reggono, diciamo, dove c'è la crociera, è riuscito ad adattare l'impedenza. A me mi sembrava molto strano, perché io guardate i progetti, ci vuole un coso, un adattatore ci vuole per forza, ma non che non ha usato dei cavi e dimensioni particolari, non lo so. Tu hai detto col condensatore lo fai il lavoro. Lì bisogna fare un condensatore in casa. Allora, i sistemi per poterlo accordare sono diversi. Uno è con, ci fa un gamma match, ma è complesso, e nella cubica è un problema, perché ci deve essere un tubo parallelo a un determinato diametro, ci sono una marea di calcoli, dove dentro poi ci deve scorrere una sorta di condensatore. Variabile, fatto con la parte di un RG213 che scorre dentro un tubo, è un cassotto, e quella soluzione, a meno che uno non la compra già fatta, ha fatto fare quello lì, altrimenti aspettarsi, cioè per carità si può fare, ma è un lavoro. O altrimenti la via più semplice è quella di creare il loop dove poi devi chiudere, no? Sai che l'antenna è cortocircuitata, per cui da una parte, diciamo a sinistra, mandi il polo caldo del cavo di alimentazione e a destra ci mandi la massa, no? E questo normalmente lo fai se il cavo di discesa è a 75 ohm, ma gli apparati noi che abbiamo sono a 50 ohm, e allora comunque questa cosa non va particolarmente bene. Allora che cosa si fa? Si fa uno spezzone di cavo, no? Che va che lì colleghi al loop, utilizzando il cavo a 75 ohm. Puoi usare anche del cavo su. Si fa un determinato calcolo che è del fattore di velocità del cavo, è in relazione alla frequenza centropanna che devi utilizzare l'antenna, e poi si usano vari 8, un WPL, e tu devi mettere dall'antenna, come ti ho detto, dalla chiusura del loop, lì ci va questo spezzone in cavo 75 ohm, poi vari 8 e cavo, poi vai giù col cavo a 213 o RG58 a seconda di che potenza devi utilizzare. Ecco, questo qui è lo stub più semplice, che è uno stub, si chiama stub in cavo, con un stub di accordo in cavo, che è la cosa più facile, senza star lì a mattanarsi il cervello con tubi, tubicini, calcoli, condensatori e cose fare. Quello lo fai e va, e l'antenna è a 50 ohm, mentre devi comunque sempre ottimizzarla per la sua frequenza di risonanza, e questo è normale, cioè l'antenna deve risuonare al centro banda dove devi operare, e lì è in relazione alla lunghezza del perimetro del cavo, cioè quanto fisicamente il bronzo fosforoso, il rame smaltato che stai utilizzando, nella sua lunghezza totale del quadrato che stai facendo. Quello lì si fa il calcolo, si fa 300.000, la velocità della luce diviso per la frequenza in megahertz in oggetto, e hai la lunghezza che è normalmente 11 metri rotti, eccetera eccetera, perciò il perimetro deve essere quello lì, 11 metri, quello che è. Sì, no, quello l'ho già fatto, tutti i calcoli sono già stati fatti. No, lui ha utilizzato questo spezzone del cavo, dice che accorciava il cavo, poi ha messo il connettore, diciamo maschio, che poi attaccava il PL con la calata giù. Ha utilizzato, lui accorciava la lunghezza di questo tubo che stai dicendo tu, modificava la lunghezza. credo, mi immagino almeno che il cavo sia di diversa impedenza, per la taglia deve essere di impedenza diversa, diciamo, è come una resistenza, le metti in serie, le colleghi in serie, in questo caso all'antenna cambi la lunghezza, diminuisce o aumenti l'impedenza del circuito. Ma non è che lo stub lo accorci o lo allunghi, no, non si fa. Lo stub è una misura precisa, è una misura esatta, che deve essere tagliato dalla parte di fine del connettore. E questo è greca per me, da cavo, diciamo, connettore. Alla fine del connettore, deve misurare così, non so, bisogna fare i calcoli, cioè, va accorciato per il fattore di velocità, perché non so, in quel caso basta comprare come si chiama RG11, usi cavo RG11, compri uno speciale di RG11 e praticamente lo sub va a un quarto d'onda, si fa quell'elemento lì, il sub in cavo si fa da un quarto d'onda preciso per il fattore di velocità, perciò subisce un accorciamento, fattore di velocità che deve rilasciarti il fornitore del cavo, cioè tu devi sapere con precisione che fattore di velocità il cavo che vai a utilizzare, perché devi moltiplicarlo in maniera tale che hai l'accorciamento di quella misura lì, e basta. Non puoi più tagliarlo, ritagliare, fare quello lì, e una volta che ti dice che deve essere lungo, cosa ne so, 5 metri e 32, tu devi farlo aspettare 5 metri e 32, devi raccordarlo poi all'antenna e poi devi ottimizzare l'antenna per la sua risonanza, cioè quello lì devi farlo, allungando o accorciando, ovviamente l'antenna si fa un pochino più lunga in maniera tale che è più facile poi trovare il dip, come si suol dire, cioè trovare il punto di accordo. Tu hai detto che era riuscito a trovare lo subasso, cioè a portare l'antenna senza avere problemi, ci ha messo un po' di tempo, dice si è portato vicino al baracchino, provava con l'osmet, lo attaccava, faceva delle prove, vedeva se c'era un miglioramento o dei peggioramenti, è riuscito più o meno a trovare un compromesso, quindi lo sub è abbastanza critica la dimensione. Sì, per un attimo vi siete sovramodulati, non vi siete sentiti con la linea. Sì, lo sub devi fare quella misura precisa, quello che dall'inizio dell'anima del polo caldo, ma proprio dal piele, quando va dentro lì, se ti dice che deve essere 5,32 m, quando è finito questo pezzo deve essere 5,32 m, quello lo devi connettere, lo metti collegato all'antenna e poi vai a vedere se l'antenna è corta o se è lunga, sai, ovviamente se accorda in basso è lunga, se accorda in alto vuol dire che è corta, e lì finché trovi il punto dip che è in funzione di dove devi lavorare, se vuoi non so lavorare a 27,4 o a 27 o qua a centropanna a 27,100 la fai in maniera tale che hai il ROS più basso, il centrobanda ce l'hai col ROS mio, ma tieni presente che antenne così chiuse hanno comunque una risposta molto piatta delle onde stazionarie, per cui hanno sempre più di un megahertz e mezzo, 2 megahertz di tolleranza, cioè per darti un'idea, io la Delta che avevo tarato in maniera perfetta a 28,550 lavorava benissimo anche in 27, non dava, sono piatte come ROS, non sono come le antenne IAGI che invece sono un po' più stravaganti. Avanti Natalino, si sta dicendo qualcosa. Io avevo fatto come sta dicendo Marco, la Delta per i 6 metri avevo fatto e funzionava benissimo. Lo stub gliel'avevo fatto con il capo 75 ohm di TV e andava benissimo. Certo, il cavo TV va bene, ma io sconsiglio di comprare e usare quel cavo, perché è un cavo che comunque irradia di per sé, perché la mantella, a parte questi ultimi che ci sono magari per utilizzo satellitare dove l'impedenza è sempre 75 ohm, però c'è un lavoro molto più accurato nella fabbricazione della calza e dei trefoli, ma gli altri cavi TV sono proprio, cioè se non c'ho niente quello uso, ma comprare, spendere 4 euro, 5 euro per fare un lavoro fatto bene, non credo che sia il caso di risparmiare, anche perché altrimenti il cavo, avendo una calza rarefatta, intanto c'ha un forte invecchiamento per esposizione ai raggi UVA, ma poi c'è proprio una perdita notevole come caratteristiche e come prestazioni, perciò lo escluderei. Per fare una prova poi si può fare, ma non è quello che conviene usare per un'installazione definitiva, insomma. Vabbè, ok. Sì, quello per satelliti invece no, quello va già bene, ovviamente i trefoli sono molto fini, non può tenere altissima potenza, ma se uno deve usare 100-200 watt, i cavi di quel tipo vanno più che bene. Infatti, io non avevo da usare potente, poi da solo una prova che stavo facendo. 13-11 il compito, già non costa molto, il cacchio, cioè, gira gira. Sì, ma infatti è per quello che dicevo, compri uno, poi non è che devi usare chissà quanto, è uno spezzone, ne compri, non so, fai i calcoli cosa viene, sarà 5 metri rotti, quello 4 metri 90, non so, quello che è, perciò sono 6 euro, sono 7 euro, ben spesi, perché una volta che fa l'impianto, a parte che poi c'ha il elettrico di qualità, il materiale col quale è realizzato, il materiale per RF, in trasmissione, tiene, se un giorno c'è un amplificatore puoi pilotare anche potenza senza aver problemi, ovviamente con vettori di buona qualità, perché ogni volta che c'è un'interruzione su una discesa ci sono perdite, ma in 10 metri tutto sommato non sono perdite esagerate, però sai, ovviamente un 0,25 per un connettore o 0,30 più un altro connettore più un altro ancora, perché già devi fare lo spezzone con gli stub eccetera eccetera, con lo spezzone da stub che perciò ha un primo attacco con il radiatore, poi c'ha il barilotto con altri due connettori che sono per la giunzione, sai, è inutile che poi fai un'antenna che ha 7,5 decibel di guadagno, se poi ne perdi già 2 decibel li perdi solo per i connettori e poi circa altri 2 decibel li perdi magari perché c'hai 40 metri di discesa e stai usando cavo RG58, e allora è inutile che ti hai comprato la Ferrari se poi non c'hai le gomme lisce, non puoi farla funzionare. No, d'accordo, una domanda, l'ultima domanda, così non ti mastrano il cervello. L'apertura di una delta loop, quella che stiamo parlando noi, confrontata a una direttiva, io ho anche una direttiva a tre elementi montata in orizzontale, è molto diversa tra una e l'altra. Cosa intendi per apertura? Non ho capito, cosa intendi per apertura? Diciamo i gradi di radiazione frontali, diciamo nella direzione di radiazione, quanti gradi apre la direttiva a tre elementi confrontata, cioè apre di più o apre di meno rispetto a una delta loop? Cioè se io devo vedere l'orizzonte, vedere quanti gradi di orizzonte ho, 30 gradi, 40 gradi, 25 gradi con una delta loop, quanto riesco a fare a una o due elementi? E queste cose sono sempre poi in funzione di quanto è lungo il boom, Robè, perché ti ricordo che il gioco del guadagno, il rendimento delle antenne è sempre in funzione, una volta che hai utilizzato il massimo della sua lunghezza fisica in relazione alla frequenza in oggetto, poi il guadagno nasce in funzione della lunghezza, della spaziatura che è presente fra il radiatore e i direttori e il riflettore, perché chi gioca questo elemento, sai, uno può avere una tre elementi ma spaziatura stretta e l'altro può avere una due elementi spaziatura larga, la due elementi spaziatura larga ha prestazioni maggiori e qui poi ci sono tutta una serie di fattori che cambiano, perché rapporto fronte fianco, una c'è la maggiore, l'altra c'è la minore, il fascio, cioè la larghezza del lobo anteriormente è quella che magari ha un direttore e ce l'ha più stretto, perciò perché ovviamente il radiatore ha già un riferimento di fronte a sé che chiude il suo fascio d'azione. E in configurazione due elementi il lobo è molto ampio, ma presente che il fascio è anche in virtù poi della frequenza dell'antenna, perché una due elementi 40 metri ha un orizzonte che è larghissimo, ha un orizzonte da 180 gradi, una due elementi in 10 metri ha un orizzonte che è molto, il fascio di radiazione è molto più stretto, cioè ci sono tanti fattori. È ovvio che se vuoi un'antenna particolarmente direttiva devi utilizzare un'antenna che abbia dei direttori davanti a sé, cioè il radiatore abbia dei direttori davanti a sé. Più direttori ha e più il fascio è stretto e più hai un fucile, capito? Hai un mirino, più direttori hai e più è un mirino, meno direttori hai e più hai un trombone a fascia larga, ecco, per intenderci. No, vabbè, con questo che già c'è Leone, nel mio piccolo c'è, no, volevo capire, rispetto a una direttiva, cioè qualità di frequenza, rispetto a una direttiva IACI, parliamo a tre elementi, quella che ho io, che è abbastanza, diciamo, è abbastanza ristretto il campo di il flusso di radiazione, diciamo, dell'onda. Considerando che la grandezza fisica dell'antenna è molto più grande, diciamo, con questo tipo di allestimento, diciamo. E, che differenza noti, per dire, 50% in più, 30% o sono simili come diagramma di radiazione che parliamo frontale? E ci sono molte differenze, Robert, perché prima di tutto la Robert è nettamente svantaggiata perché è esposto alla, un attimo che parla, ovviamente di gran lunga superiore a quello della cubica o della delta, no? Perché acchiappa più etere e più spazio nell'aria rispetto a quello che la IAGI. Ma poi ci sono degli altri fattori. Luca, sì. Dal punto di vista della sua ricezione, per riceve molti più disturbi, molto più noise atmosferico, molto più noise da circuitazioni vari, da motorini, da qualsiasi Giuseppe che produce scintille, è antenna che capta molto più questi disturbi rispetto all'antenna chiusa. Confrontando già le due antenne con lo stesso apparato, quando commuti, senti che una fa e l'altra invece sembra quasi che non ci sia connesso nulla, è proprio silenzio assoluto. Difatti, non so, ci sono dei segnali, tra l'altro, poi la un attimino, che sta parlando Marco, chi sei, un attimino, dei segnali che magari rotano di fase. Facciamo dei segnali dei passaggi più corti, dai, facciamo a tempo. È un segnale che arriva da lontano per mille motivi, riflessioni e cose varie, può avere dei forti effetti fading mischiati al rumore atmosferico e al rumore cosmico, ti dà una percezione del segnale 2-3 con mischiato al disturbo, è poco comprensibile, perciò trasportato come segnale ma ricco di interferenze. La IAGI o la cubica, magari il segnale arriva ugualmente 3 ma arriva con una modulazione che è paragonabile quasi a un segnale 8-9, dici cavolo, c'è una differenza pazzesca fra l'altro, eppure il segnale è uguale perché con antenna cubica IAGI fase che avviene nel viaggio, nel trasferimento del segnale, la IAGI lo soffre, invece la cubica e la delta no, e ti permette di fare il collegamento in maniera nettamente migliore. Tutto chiaro, va benissimo. C'è qualcuno che sta chiamando la nota, lo chiama anche. Robè. Chi sei? Chi sono, chi sei? Ah, Torino, sei tu che stava parlando Marco, ci senti qua sopra, momenti sopra, attimino che stava parlando Marco, che in movimento tra l'altro, riprendiamo subito, Torino, riprendo subito, non so che stavamo finendo un discorso con Marco. Dai, ancora ci sei. Comunque, sicuramente la Kubrick è un'ottima antenna, così è Marco. Sono rientrato, scava. Bene, è rientrato anche Luca, ciao, saluto a Tonino, allora, buonasera Marco Scorpio qui per il QSO. Ma delle antenne sperimentate sino ad oggi sicuramente è una delle antenne migliori assieme alla Delta. La Delta ha il vantaggio rispetto alla cubica che risente meno della distanza del piano di terra, perciò quando incomincia a parlare di frequenze dove la lunghezza fisica è critica, tu pensa, non so, una cubica per i 40 metri, no? Come quella che devo montare io, cioè, ci sono le canne che sono lunghissime, il loop sono alti 10 metri, cioè un quadrato da 40 metri, e di dimensioni veramente importanti e critiche. E lì poi, soprattutto quando devi poi installarla a 20 metri dal suolo, cioè diventa veramente un lavoro immane. Mentre la Delta ha delle prestazioni nettamente superiori, pur montata quasi sul piano di terra, a pochi metri dal piano di terra, però anche lei nasconde un lato critico, che è quello della sua forma, perché mentre nella cubica ripartisci su quattro lati i 40 metri, per dire, sulla Delta devi ripartirli su tre lati e allora il gioco si fa ancora più critico, perché devi mettere delle bestie di canne lunghe 15 metri, 16 metri, 17 metri, capito? E allora i supporti diventano il lavoro diventa veramente difficile. E mette a prova l'uomo e la meccanica. Va bene, sono arrivato a casa e vi saluto, magari, non so se, visto che oggi è venerdì, sicuramente poi sarò in radio, se ci siete qui magari facciamo ancora quattro chiacchiere, volentieri continuiamo a discutere sulle antenne, campo sul quale lavoro in maniera attiva minimo da 25 anni. L'antenna ancora a te, Roberto, fai girare, con la buonasera a tutti, Marco Scorpion in QRT, auguro a tutti buona cena, ciao ciao. Ciao Marco, a te buona cena, se devi fare la cena, buon tutto, avanti Natalio e poi Luca. Ciao Marco, buona cena, buon tutto. Al limite se entri ci fai piacere, dai, non c'è problema, più tardi. Ok, avanti Luca. Ma che mattino viene, stava chiudendo, non l'ho sentito. Marco Scorpio. Rientro Natali dopo come sempre, no? Perché c'è il signor Verducci. Quello di Zilling con l'andello per SWW. Ciao anche a Torino, ciao a tutti gli altri, ciao Salvatore, Gianni se ancora ascolta, chiunque qui è in QSX sul canale. Marco Scorpio QRT. Signor Verducci. Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Alessi. Ciao Marco, buonanotte, dai, buona giornata per domani. Ci sentiamo alle prossime. Avanti, Robe, ma Salvatore non c'è più, Robe. Ho chiamato un paio di volte e non mi ha risposto. Però, aspetta un attimo, c'era Tonino che voleva entrare, poi l'ho fatto entrare, non ha ripreso. Se c'è ancora lo facciamo salutare. Un attimino, Tonino, ci sei? Sì, ci sono, però perché avete comogliato. Mi avete scassato, riprenderò bene, non me ne frega niente, via. No, vabbè, non ti offendere Tonino, stavamo parlando, ormai non entra quasi mai, è un tecnico, una persona molto competente in materia di antenne, abbiamo chiesto delle informazioni, ci devi scusare, però non è facile sentirlo, per cui ce l'abbiamo fatto andare, abbiamo un po' monopolizzato il canale, per cui non ci sono problemi. Avanti, infatti faccio salutare le altre due, da Luca e da Natalino. Avanti, prima Luca e poi Natalino. A me non è per fatto per saluti e poi... Per cultura. Troppo volme. Capita mia, riprendete e poi... Cultura. Lo passo lui. Non bene, aumenta. Non so. Luca. Chi è? Giudicano. La vita mia... Ma non lo passate? Non lo passo. Mi ascolti. Ma aumenta, Robè. Sto uscendo con 0,24, adesso lo mi ascolti. Tony, mette sempre il cubinende, 9,40 noi, 9,40. Nacchi. Tony, te bada. Ma io non sono 9,40, non sono... Io sto andando 0,5 avanti, capisci? Ma 9.40 sì, qua non ti passava nessuno di loro, cioè Roberto ce l'avevamo fatto, poi ha aumentato e ormai ti aveva superato, se non ti passava, chi è l'altro che chiamava avanti? Che non riusciva a passare. Ciao Luca, buonasera, un controllo mi servirebbe, Fabrizio da questa. Ciao Fabri, segnale 9.40, radio 5 bella, duplicata. Anche tu sei più o meno lo stesso, dai. Buona, ascolta, un'azione com'è, tranquilla, oppure c'è qualche cosa che non va? No, l'ultima, per me va bene, poi non so gli altri, buono, vabbè, vai, per Fabrizio. Qua segnale 9.40, radio bella, super low, comunque bella 5 di lusso, amplificata, vai. Confermo anche io, non ogni segnale così forte, io ho il segnale un po' più basso, 9, radio perfetta 5. Luca, io sto facendo con 0,2 watt, neanche 200 mW, meno di 200 mW, ma è forse l'hanno impassato. Tonino è legata a pedale, arriva un bel forte qua. Scusate, posso? Natale. LK, da io a ragione, puoi ritirarci, ci sentiamo le prossime, ciao a tutti. Natale, ma... Ehi Natali, fate dirmi più spesso, là. Ok. Ah, a proposito, Natali, prima di chiudere, risolto con la macchina? Sì signore, là. No problem, tutto a posto. Meglio così, là. Ok, facciamo riprendere l'amico Fabrizio, comunque buono tutto, buona giornata per domani, Natalino. Ti faccio salutare prima la Luca e poi Fabrizio, eventualmente. E Tonino se c'è. Tutto, vabbè. Vai, Tonino, riprendi. Vorrei prendere una cosa, Roberto, guarda. Dimmi. Ti trovo via Milano. Cosa hai detto? Non ti capisco, stai parlando la radio bassa, ti sei. Ma come la radio bassa? Ma è, io non so, è la radio bassa, io sto andando con i batti del coso che mi sta dando il coso. Lascerò. Ma come si chiama? Il segnale sei fondo scala 980, però ti sento un po' blu bassino di radio. Ma basso di radio, sto parlando del coso, quello normale. Sono normale. Se vorrei sapere, c'è una cosa sola. La tia che tu c'è apparecchiatura abbastanza sofisticata. Vuoi sapere, non ho capito, che tipo di apparecchiatura ci c'è? Vabbè, mi ascolti. Mi pare chiaro. O mi ascolti, oppure sto parlando in arabo. Certo, la radio, ti sento male di radio, Tony. Il segnale è fortissimo, o sei troppo forte, stai saturando, non lo so. Perché non capisco, ho capito parte di quello che mi hai detto tu. Parla più lentamente, dai. Non ho capito, ripeti. Sto parlando con i voci del coso, delle S9. Ci credo Tony, però adesso ti ho capito, stai usando le batte delle S9, però poco fa non ti riuscivo a capire, parla più lentamente allora, prova a ripetermi quella domanda di prima. Aspetta che, questo è il mic, il suono normale, e prendo il mic amplificato. Va bene, dai. Vai Luca. Ma cosa va? Eccoci Roberto. Non lo so. Fabrizio c'è ancora. Roberto. Tony, vai a bada. Dacchi. Cosa mi dici come i cazzo? Allora basta Roberto. Dimmi Tony, mi chiami e non mi dici niente, dimmi. Perché mi fai chiamate, poi. Ma cosa vuoi che ti faccia io? Ma non mi hai detto, sto cambiando microfono, metto l'altro microfono. Io ti stavo aspettando che mettessi l'altro microfono. Cazzo, ma io metto il microfono. Ti vedo una cosa. Riprendi. Salve, ormai la 27 lavoro. Ma ti chiedo, mi ci sia lunga. Fallo, chiudi. Tony, oh ti cazzo, sempre arrabbiato, sì, boh, allucinante. Vai, dai, vai qua con lui. Cambia il microfono, su di cambia che avevo un controllo. Dimmi una cosa piuttosto, come ti sta arrivando, Tony? Dammi un controllo a me, guarda, ti aumento un po' di watt, Aspetta. Come c'è una modula però, Aspetta con l'amplificatore ti bucio l'antenna. Aspetta. 40 watt sta dando a Troy, come mi senti? Santiago 8. Segnale 8. Radio Bella, 5, segnale 8. Cazzo, aspetta, ora si scende il segnale, Troy, controlla bene. Vai da Zoom Smitter, Dacchi. Bravo, Gomo. Ho abbassato un po', guarda, adesso lo riaumento, guarda, così sono 10 watt, circa. Così sono 40, racchi. Luca, è inutile che tu dici 40, 60 watt. Luca, ci abbiamo dato inserito, è impossibile. E infatti siamo a strano, le 9.40 qua, cazzo di segnale. Vabbè. Dimmi Tony, io quando ti arrivo per curiosità, 2 watt sto utilizzando. Ma vai, lasciamo fare 2 watt, dai. Ascolta. Tonino. Andiamo proprio con i watt giusti. Ma devo sentire proprio 2 watt, 2 watt. Da dove metterlo tu, a dove mi trovo io. Luca, io non le dico di balda, io sto uscendo con meno di 2 watt adesso. Non arriva ai 2 watt la potenza. Pino, mi sì? Un attimo. Vabbè, ti ho detto, da dove la metto? Ma non è 40 spaccato. Con 2 watt. Se devo segnare giusto. Tonino, io non ti dico, non giuro mai, però ti sto dicendo che sto uscendo con meno di 2 watt. Tu mi stai arrivando a fondo scala, Tonino, non so cosa stai utilizzando, stai arrivando a fondo scala. Io in questo momento non arrivo a 2 watt di potenza. Cazzo, ti dico che io non sto utilizzando, io sto utilizzando l'S9 e te lo dico subito che sto uscendo con 2 watt a mezzo. 1, 2, 3. La stessa monopolina è tutta conta a zero. Voi, se voi che a 104 il coso e il supermai mandaggi, che cazzo, non sente né a Lucca e non sente nessuna sassa. Io ti ho detto quanto sto arrivando con 2 watt, tu stai arrivando a bomboletta, io quanto arrivo con 2 watt, dammi un controllo di segnale. Io ti parlo segnale. Come segnale 6-9. Guarda adesso mi fa, dai, questo segnale da 2 watt a questo qui, quanto sto arrivando adesso? Puttana troia, che sei attaccato? Cosa? Sei attaccato? No, non ho attaccato niente, questo è come esco normalmente. Oh, voi, vabbè, aiuto, non andiamo a scherzare, cazzo, che sono sceso a 9.30. Sto uscendo con 15 watt adesso, aspetta, non è un po' di meno di qui, di un po' di più, sono 20. Ciao, sei sceso a 9.30. Ah, 30, sei sceso. Allora, questo come prima, così ero prima, così sono, aspetta, ti dico, adesso sono 1 watt e mezzo, non arrivo a 1 watt e mezzo di potenza. Io mi domando e mi spiego. C'è certa cosa, cazzo, che mi dicono che sto... Non ti credo. Sei mezzo, cazzo, come segnale, cazzo, me ne trovo qua, 9.20. Guarda, adesso sono... sto ancora scendendo, Tony, guarda. Questi sono 200 milliwatt, quanto arrivo adesso? Cazzo, ma vabbè, ma... Vuoi che accendi io e ti faccio vedere, cazzo, come ti... Cazzo, ma che lo stai dicendo? Ma tu non credi che io stia uscendo con 200 milliwatt? Aspetta, non stesso segnale roba con Tonino. No, cazzo, non ci credo. Non ci credo. Cazzo, con uno che esce con cazzo con un mi arriva a 9.20. Cazzo, ma roba, guarda, dove stiamo andando? Tony, guarda che siamo uno di fronte all'altro, in linea d'aria saremo 3 km, forse neanche. L'antenna tua vede l'antenna mia, forse non l'avevo preso. Usini, ce l'ho di fronte io non ho nessun ostacolo. Ma hai capito, Tony? Cazzo di Aldo, ma io ti capisco, ti credo. Cazzo, ma come mi divai, cazzo che... Ma dove stiamo andando? anche io, quello stava a coso e che abitava. E lui doveva far vedere robe. Ma passo. No. Adesso sono 2 watt e mezzo, non passo. Guarda, ti giuro, Luca, io non giuro, però ti sto dicendo, ti giuro che sto uscendo adesso, non arriva a 3 watt, 2 e mezzo fisso a picchi e meno di 3. Si vede che cambia il segnale, a Puglia, Vabbè. Well, ok. Io sono con la Cenova. E io vado con 40 watt in altro. È il vivo che sta parlando. Allora, come si chiama? Tonino, io ho l'attenuatore inserito, sei quasi 9 più 20, se trovo l'attenuatore arrivi a 9,80 a fondo scala. E io non andiamo a scuotere, cazzo, ma guarda dove sono la protezione che sono io, anche con un coso, con quelli che fanno la cosa a 5 watt. Dove abiti tu? Ti ammazzo. Vabbè, ora se chi lo dice, io non lo so, non possiamo dirle. Va bene, dai, stiamo monopolizzando il canale. Io adesso vado a mangiarmi qualche cosa, non so se rientro dopo, se no vi saluto tutti. Saluto Torino, che è più lontano, dai. Fatti fare bravo Torino e non ti arrabbiare, perché poi fa male arrabbiarsi. Ciao Luca e tutti gli amici eventuali in ascolto. Ciao ciao, cuoretti da parte mia. Faccio riprendere a Torino e aspetto i saluti. Ciao Robè, sentiamo, ciao ciao. Io sono utilizzato, lascialo, basta, io sono il loro vento. Poi c'ho il coso, quello che mi ha chiamato, e se chi si doveva accendere, andiamo un dia. Basta, non c'è niente, non c'ho altro. È brutto. Perché l'ho venduto, quello da un filo, guarda, l'ho venduto. Non c'è niente altro. Ciao Luca, continua a 29, si trova. Il mio segnale è questo qua, anche, guarda, e quando muto, neanche l'ago si muove, cazzo. Ma Tony, ci credo, non sto dubitando quello che sta dicendo, però i segnali in FM sono completamente diversi di quelli rispetto a quelli in AM. Vabbè, ti lascio Tony, dai, che mi hanno chiamato letto. Ciao, ciao di nuovo. Ti saluto, saluto i belli. Ma sempre dagli altri. Vai Luca! Ciao Luca. Oh, non rientra nessuno, vabbè, 21.